Da una settimana circa una ventina di migranti del Mattei hanno ricevuto delle lettere che annunciano il fatto che loro devono uscire dal centro Mattei e che gli viene revocata l'accoglienza. La ragione di questa cosa, che viene direttamente dalla prefettura, è il fatto che questi migranti hanno superato la soglia di reddito di 5.900 euro, quindi circa 500 euro al mese, e che è una cosa che va avanti, diciamo, da anni e che la prefettura utilizza fondamentalmente per ricattare i migranti e liberare spazio dentro al CAS. Chiaramente è difficilissimo trovare case e sistemazioni a Bologna per tutti, per i migranti lo è ancora di più, e il fatto di perdere il posto all'interno dell'accoglienza per loro significa anche di perdere la residenza, che è fondamentale sia per lavorare che per rinnovare il permesso di soggiorno. Quindi i migranti sono molto preoccupati, sono molto anche incazzati. Abbiamo fatto sabato scorso un presidio davanti al CAS Mattei, che è stato molto partecipato. Abbiamo ottenuto un tavolo con la prefettura che si è tenuto lunedì scorso, dove la prefettura si è comportata in modo assolutamente ostile nei confronti dei migranti. Si vede in modo chiaro che con il ministro Piantedosi e con questo governo non c'è nessuna possibilità di essere ragionevoli e di concordare anche semplicemente il fatto che non è possibile mettere in 5 giorni più di 20 persone per strada in pieno inverno, ed è per questo che domani mattina appunto saremo sotto il comune a partire dalle 10 a fare una conferenza stampa in cui i migranti del Mattei, quelli che hanno ricevuto le lettere, vogliono far sentire la loro voce, raccontare quello che sta succedendo e chiedere sia alla prefettura che al comune di trovare delle soluzioni. Ecco, questa pratica, diciamo, come dire, in passato ha riguardato anche migranti di altre strutture? Sì, questa è una cosa che sta avvenendo in vari posti in Italia. Nel 2021, per esempio, a Reggio Emilia ci sono stati oltre 130 migranti espulsi dai CAS. È una cosa che appunto avviene in diversi posti e chiaramente avviene soprattutto dove c'è bisogno di far spazio perché arrivano nuovi migranti. Si utilizzano questi stratagemmi fondamentalmente per liberarsi dei migranti che sono dentro l'accoglienza, però non è una cosa che avviene solo nel CAS Mattei né tanto a Bologna. Queste espulsioni rischiano di compromettere anche il percorso di autonomia di queste persone? Sì, chiaramente, perché i migranti hanno scritto un volantino per il presidio che abbiamo fatto sabato scorso dicendo: non vogliamo finire per strada, non vogliamo nemmeno finire a spacciare o a non poter avere un lavoro, ed è comprensibile perché senza la residenza non puoi avere il permesso, senza il permesso non puoi avere un lavoro, molto complicato costruirsi una dimensione autonoma nella vita se non puoi avere un lavoro se non in nero e senza il permesso di soggiorno. Quindi è chiaro che non c'è nessun interesse affinché le persone che sono state accolte in questi anni fuoriescano dall'accoglienza con le possibilità giuridiche di poter appunto avere una vita autonoma. E si tratta di migranti che lavorano per lo più all'interporto, nei magazzini della logistica, con contratti di 2 o 3 giorni, che in fondo tutte le notti vanno a lavorare, mandano avanti un settore centrale dell'economia della città.